si specchiano nelle vetrine. Fart che copre brufoli sulle facce delle ragazzine. Mini antiuomo, due passi dal confine. Mini antiuomo, due passi per la fine. Chiuso nella mia prigione di lamiera, tra poco soffoco, basta un'altra fumata nera. E campo per pagare le rate di questa cazzo di scatola. Per mantenere sto privilegio sono disposto a far esplodere un'atomica. Sono disposto a far implodere un'atomica. Sono disposto io, sono disposto io. Amo con tutto me stesso le spiluminose del contachilometri. Amo con tutto me stesso le velocità raggiungibili espresse in numeri. Non capisco bene il tuo sesso, ma forse adesso. Non capisco bene il tuo sesso, ma forse adesso. Mi rendo conto che sei parte del mio io. Finanzierò le prossime guerre, mi tatuerò un codice a barre. Ebbe nel mio orto non vedrò mai oltre, si ti amerò ma come le altre. Finanzierò le prossime guerre, mi tatuerò un codice a barre. E mi inserirò nel meccanismo, ma contenterò di un fugace orgasmo. Finanzierò le prossime guerre, mi tatuerò un codice a barre. E per il mio orto non vedrò mai oltre, si chiamerò ma come le altre. Sabato e domenica porta di Roma. Epilogo di una patetica vita vissuta in coma. E ve lo giuro, non è una critica, ci sto dentro fino al collo. Dire il contrario sarebbe ipocrita. Anch'io come te me spacco The Big Mac, me spacco The Big Mac. Compro sempre i CD di una Nike Kong, ma li stampa la Sony BMG. E sto fattore non lo calcolo. Bravi a manifestare, bravi a lasciare stare. Cari alle feste vuote, l'otto ci so giocare. Pari su ruota due se lo becco. C'ho mille idee per ingrassare. Su un'isola con villa vista mare, con la domestica che sa cucinare, scopare. E che la posso picchiare a piacere. E che la posso picchiare a piacere. E che la posso picchiare a piacere quando mi pare. Mi danzerò le prossime guerre, mi tatuerò un codice a palle. E per il mio orto non vedrò mai oltre, si chiamerò ma come le altre. Mi danzerò le prossime guerre, mi tatuerò un codice a palle. E mi inserirò nel meccanismo, ma contenterò di un fugace orgasmo. Quelle, mi tatuerò un codice a palle. E per il mio orto non vedrò mai oltre, si ti amerò ma come le altre. Si ti amerò ma come. Si ti amerò ma come. Amo con tutto me stesso le speluminose del contachilometri. Del contachilometri. Amo con tutto me stesso e velocità raggiungibili espresse in numeri. Espresse in numeri. Non capisco bene il tuo sesso, ma forse adesso. Non capisco bene il tuo sesso, ma forse adesso. Mi rendo conto che sei parte del mio fugace.